9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio di settimana, buon lunedì 6 giugno. Prometto, in questa settimana ci occuperemo anche dei referendum, molti di voi lo chiedono, del resto le mie posizioni sono note, ma comunque ce ne occuperemo. Le mie posizioni sono note, nel senso che sono senza parole di fronte a un paese in cui tutti i partiti improvvisamente cambiano idea rispetto a quello che sta agli atti nelle loro proposte di legge depositate. Quando dico tutti intendo il PD da una parte, gli ex della maggioranza dall'altra come l'FLI, alcuni spariscono, c'è chi non dà indicazione di voto. Che tristezza assoluta, un paese in cui nelle questioni di merito la politica si riduce a rincorrere le piazze, di cui ha evidentemente paura, visto che non è in grado più di comunicare quali siano le proprie idee alle piazze. Una volta i partiti servivano a quello, potevano sbagliare o avere ragione, ma non temevano di avere delle opinioni, anche perché se non servono ad avere delle opinioni e se non costituiscono quindi una ossatura come prevista in Costituzione per consentire poi e agevolare ai cittadini la partecipazione politica, a che cosa servono i partiti? Servono a inseguire le vostre idee? Allora aboliamole, tanto vale che ce ne alleggeriamo del loro costo col finanziamento elettorale, o no? Comunque ne parleremo in settimana senza dubbio dei due quesiti sull'acqua, come di quello sul nucleare, come del legittimo impedimento. Quello sul nucleare vediamo che cosa decide poi oggi. C'è un ulteriore giudizio rispetto all'impugnativa del governo. Oggi ci occupiamo di un altro tema che mi ha molto colpito e che ho visto in qualche maniera trattato nel dopovoto, nel secondo turno amministrativo, però non con abbastanza attenzione, perché sbaglierò, ma io invece vi ho letto un certo peso nel determinare i risultati a sorpresa molto pesanti per il centrodestra, per il governo e soprattutto innanzitutto per Silvio Berlusconi. Sto parlando del secondo turno amministrativo con i risultati elettorali di una settimana fa, che hanno visto a Milano, a Napoli, a Novara per la Lega, ma insomma in generale una fortissima sconfitta per il centrodestra e anche un giudizio per la prima volta dopo anni negativo per la conta che lo stesso Presidente del Consiglio aveva incardinato come la conta politica a questo tornata amministrativa, visto che la sua candidatura come capolista a Milano con il sindaco uscente Moratti questo significato aveva avuto. Gli elettori hanno detto no, basta, grazie, dando una svolta verso una sinistra che ha una cifra politica generalmente non vicina al PD, tranne che a Torino, a Bologna, dove il tradizionale riformismo ha vinto, a Bologna seppur di poco, ma altrove con candidati sindaci che si sono affermati nelle primarie per espressione non diretta dei candidati del PD, ma che insomma hanno confermato che il centro-sinistra ha poi una strategia anche attraverso le primarie che gli consente di non perdere pezzi ma di far convergere voti di anime culturali, di opinioni talvolta anche molto diverse, ma che comunque poi alla fine sconfigge Berlusconi. Ciò di cui ci occupiamo oggi è un solo tema della scorsa tornata elettorale, ed è il tema della femminile, il peso della componente dell'elettorato femminile alle urne. La mia domanda che faccio ai nostri ospiti e che rivolgo a voi sperando che vogliate intervenire, il numero verde ve lo ricordo 800 24 00 24 per i messaggi 349 238 6666 è questa, è una domanda molto semplice: secondo voi a questo turno amministrativo, per come avete capito e interpretato poi scomposto i flussi elettorali, ha pesato il voto delle elettrici donne, in particolare a un anno e più dei Ruby Gate, di tutta questa componente che è stata molto importante nell'abbattere nei sondaggi Silvio Berlusconi, esprimendo un voto alla componente femminile dicendo adesso basta con questi comportamenti, siano penalmente rilevanti o meno se ne occuperà qualcuno a Milano, ma intanto noi vi diciamo basta, più rispetto. C'è stata questa componente? Io temo e ho capito di sì. E seconda questione, nel fatto che poi i sindaci che hanno vinto, come Pisapia, come De Magistris, abbiano annunciato contestualmente poi di confermare l'impegno, che magari prima era meno stringente in campagna elettorale, di procedere alla formazione di giunte in cui la componente femminile pesi almeno il 50%. E anche questa una svolta, ne abbiamo parlato tante volte della questione del genere e della rappresentanza, sapete che io pur liberale mi sono alla fine convinto a rompere l'immobilismo perché altrimenti non si riesce mai a ottenere, quindi io sono per sunset law, per leggi a tempo che pongano più in su il livello obbligatorio della rappresentanza femminile, dopodiché si tornerà a decadute le leggi, ma intanto si farà un passo avanti. Senza questo passo avanti significativo, ogni volta sono chiacchiere, perché poi le percentuali restano bassissime nella rappresentanza nelle imprese, nelle queste amministrazioni, ma anche in politica. Allora, due domande per voi. Quanto ha pesato il disgusto delle donne, o comunque la disistima delle donne verso uno stile pubblico nei loro confronti che riserva dei ruoli francamente infamanti e comunque poco meritori da una parte, e dall'altra se si è messo in moto qualcosa, anche perché c'è una parte, evidentemente in questo caso a sinistra, che è più attenta, tanto da portare poi aggiunta il 50% composte da donne. Questa è la domanda che rivolgiamo innanzitutto alle nostre ospiti. Abbiamo Maria Latella, che è direttrice del settimanale A, e che ringrazio di essere qui. Buongiorno, direttore. Buongiorno. Abbiamo con noi Giacomo Schiavi, che è il vice direttore del Corriere della Sera. Buongiorno. Buongiorno. E Luigi Roano, giornalista del Mattino. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, innanzitutto cominciamo con Maria Latella, che poi ci deve lasciare tra un quarto d'ora. Alle due domande che risposta dai? Quanto ha pesato, e se c'è stata ai tuoi occhi questa componente, e come vedi questo impegno dei nuovi sindaci del centro-sinistra? Allora, alla prima domanda rispondo di sì, c'è stata. E a mio avviso è stata in qualche modo rafforzata l'indignazione delle donne in Italia, non solo per il giudizio sui comportamenti privati di Berlusconi, quanto sull'evidente contrasto tra tutte le retoriche che si fanno in Italia sul merito, sul fatto che bisogna premiare il talento e che bisogna tornare alla meritocrazia, e la realtà delle cose, che dimostrava come si diventasse consigliera regionale, si entrasse in politica, si ottenessero contratti in TV, nella TV di Stato, solo per ragioni che niente avevano a che fare col talento e col merito. Io sono fiera come direttore di A di aver cominciato con la mia redazione 4 anni fa una campagna contro i senza talento, che puntava il dito contro alcuni protagonisti dei rotocalchi italiani, tutti i rotocalchi italiani, nessuno escluso tranne A, che continuavano e continuano purtroppo a mettere in copertina o a dare copertina a protagonisti di spot o di programmi televisivi che non avevano fatto niente nella vita se non appartenere a un certo circuito. Allora, tutto questo ha scocciato le donne, le elettrici italiane, ma non solo, perché non puoi sentirti raccontare devi farcela da sola, che devi studiare, che devi impegnarti, che devi parlare 2 lingue, che devi andare all'estero a costo di enormi sacrifici, e poi vedere che basta avere un bel sedere ed entrare nella scuderia di noti talent scout per fare una carriera strabiliante. Tutto questo ha indignato le madri, ha indignato le figlie, ha indignato le persone che ritengono offensivo sentirsi prendere in giro da chi predica bene e razzola male, e uno degli effetti è stato questo. La seconda questione è di diretta derivazione della prima. Mi viene in mente che la Francia, per uscire dal cul-de-sac, no, di terribile figura internazionale che ha fatto con Dominique Strauss-Kahn, non ha trovato di meglio che puntare al Fondo Monetario Internazionale sulla candidatura di una signora competentissima e, fino a prova contraria, assolutamente a prova di pettegolezzo, come ministro dell'economia Christine Lagarde. Allora, lungi da me il sostenere l'insostenibile, vale a dire che le donne non si fanno corrompere, che sono inattaccabili sotto in tanti aspetti. Le donne sono esseri umani come tutti gli altri, con le loro debolezze, e le inchieste giudiziarie stanno lì a dimostrare. Mi riferisco per esempio ad alcuni fatti di cronaca giudiziaria avvenuti in Calabria qualche tempo fa, che ci sono donne corruttibili esattamente come gli uomini. Ma in linea di massima, avere più donne in politica, così come nei consigli di amministrazione, secondo me intanto abbassa la quantità di testosterone che spesso muove le decisioni. Cioè di quella componente poi, istintiva tendenzialmente più violenta che ragionevole che è associata al testosterone. Sì, sì, sì, ma è così. E quindi riporta un elemento di razionalità e di pragmatismo. E poi dà voce a un pezzo di società, non solo italiana, però noi stiamo parlando dell'Italia, che nell'Unione Europea, lo ricordo, viene solo prima di Malta nella capacità di inglobare le forze femminili nei consigli di amministrazione, nei ruoli di importanza. Quindi mi sembra del tutto scontato che due consigli comunali di due grandi città attuino quello che avrebbero dovuto attuare non solo i governi, perché è facile mettere 8 ministri al governo, bisogna vedere che dicasteri dai, che competenze usi, perché se metti una ministra che non ha mai fatto politica prima, è un po' come, no? È come dare un giochettino e farlo poi usare agli altri. Cioè, l'Italia deve smetterla di prendersi in giro. Noi ci siamo presi in giro e ci hanno preso in giro negli ultimi 20 anni. È inutile mettere donne giusto per metterle in vetrina, bisogna sceglierle per competenze e affidare ruoli davvero a loro, non metterle lì in vetrina e poi far gestire dietro le quinte la politica ad altri. Direttore, nella tua valutazione personale, io ripeto, torno a fare domande a Maria Tella perché poi ci lascia, perché poi con Giacomo Schiavi e Luigi Reina approfondiamo specificamente a Milano e a Napoli il fenomeno, ma nella tua opinione bisognerà che il centrodestra, io lo dico da vecchio, insomma, io sono una persona moderata, per me è intollerabile che esista un centrodestra che faccia passare questa idea di che cos'è la donna, di che rapporti devono avere gli uomini in pubblico e in privato con la signora. Sarò un vecchio conservatore, però penso che questo aspetto in un certo elettorato moderato pesi a un certo punto. Allora, la mia opinione è che a un certo punto Berlusconi è diventato indistinguibile, inseparabile oramai da questo, che non è più solo la sua cifra di essere in politico che da sempre in 17 anni lo ha caratterizzato, anche se poi diventa un referendum dopo tanti anni, è più politico di tutti i politici, ma io sto parlando di questo aspetto, dell'aspetto della componente del rapporto con le donne. La domanda che faccio a te, una domanda un po' così tagliente, anche secondo te questo aspetto del suo essere in pubblico e in privato lo fa oramai un uomo pubblico che è indistinguibile da questo e dalla sanzione che, pubblica che si accompagna a questo, o secondo te in realtà nel giudizio degli italiani, siccome una volta perde ma poi una volta rivince, ancora una volta Berlusconi potrà andare oltre questa specie di, a mio giudizio, terribile sanzione che gli tocca per questa vita sregolata che ha anche aspetti pubblici che non possono essere ignorati? Lo può superare ancora una volta nel giudizio degli italiani secondo te? Allora, in linea di massima l'elettorato tende a chiudere gli occhi finché le cose economicamente vanno bene, ma c'è un combinato disposto di cose che mi fanno mi suggeriscono di dire che la stagione del Berlusconi che strizzava l'occhio a quanti ridevano con lui alle barzellette sconce, questa stagione qui è terminata, per la semplice ragione che la situazione economica è grave e non migliorerà a breve. Allora, non è un caso che negli anni 80 le TV commerciali mandassero in onda programmi vistosamente sexy. Quella è stata la stagione dell'espansione economica, della Reaganomics, continuata poi negli anni 90 di Clinton, eccetera. Ora c'è un cambio di tempo, lo spirito del tempo è diverso e quegli atteggiamenti, quelle barzellette, quel modo di fare hanno un sapore terribilmente retro, superato. Certo, se arrivasse adesso una meravigliosa congiunzione economica favorevole, probabilmente gli italiani voterebbero chiunque è lì che li garantisce sotto il profilo economico. Siccome così non è, io credo che i politici più avveduti, più furbi e più nello spirito del tempo corrano ai ripari molto rapidamente. Sarkozy, che non è certamente in testa ai sondaggi, ora ammanta il suo stile di vita da uomo corretto e buon padre di famiglia, addirittura mette su una nuova famiglia con la sua sposa, mentre sappiamo bene che fino a 3 anni fa su Sarkozy circolavano un sacco di pettegolezzi, certo, esattamente come ne circolavano su Strauss-Kahn o su altri. David Cameron, che non è certamente un pericoloso talebano né un estremista, proprio ieri, il leader del Partito Conservatore, nonché il premier britannico, ha chiesto nella democraticissima e liberalissima Gran Bretagna particolare attenzione alla comunicazione pubblicitaria che riguardi i minori, chiedendo espressamente che non ci siano cartelloni pubblicitari con richiami sexy e bambini usati in questo senso, chiedendo anche una particolare attenzione agli stilisti britannici che non sfornino un abbigliamento destinato ai minori come se fossero delle lolite o delle adolescenti sexy. Cioè, lo spirito del tempo va in una certa direzione. Tu sei un liberale, io sono sicuramente una che non ama le censure, però un certo compiacimento verso le ragazze considerate più per il loro bel lato B che non per le loro qualità intellettuali, quel tipo di strizzamento d'occhio così che è sembrato essere la cifra, il codice di questi ultimi 20 anni, un pochino mi sembra da mettere in soffitta, perché i tempi sono seri, la crisi economica ci costringerà a tirare fuori le nostre capacità e a combattere una competizione che gli italiani e le italiane non potranno risolvere soltanto a colpi di lato B, per intenderci, ma bisognerà essere molto più capaci, competenti e concentrati sull'obiettivo. Tutto questo mi fa pensare che la stagione del Berlusconi delle barzellette sia da archiviare. Certo, lui potrebbe anche decidere di convertirsi a un nuovo stile, ma chi lo conosce meglio di me può forse nutrire dei dubbi. Dei dubbi, perché è certo molto complicato. Bene, intanto un grazie a Maria Latella per averci dedicato questi minuti, buon lavoro, e devo dirle che parecchi hanno mandato gli sms: ah, non sapevo che questo fosse il presidente direttore di A, un nuovo lettore, spero di aver aggiunto lettori. Comunque grazie a Maria Latella, adesso andiamo rapidamente in pubblicità, perché poi con Gian Giacomo Schiavi, vice direttore del Corriere, con Luigi Girolano, giornalista del Mattino, affrontiamo il problema sia a Milano che a Napoli. Questo effetto c'è stato, non c'è stato, la sinistra ne ha approfittato o siamo davvero a una svolta? La componente femminile dice la sua ed è un marchio che pesa e può pesare in maniera indelebile in 3 anni di sconfitta e poi di nuovo di vittoria di Berlusconi, oppure no? 9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio, la componente femminile del voto del secondo turno amministrativo della settimana scorsa, che ha segnato un segnale di discontinuità nella politica italiana. E molti ascoltatori di centrodestra mandano sms dicendo: Gianino, ma che modo è questo? Ma che fai, Gad Lerner? Ma insomma, ma com'è? Ti dimentichi dall'altra parte chi c'è? Perdonate, cari radioascoltatori, conoscete le mie idee? Io sono moderato, ma come penso che se per 17 anni prometti di abbattere le tasse e poi non lo fai e la gente si fa girare maroni, ha ragione la gente, e il mio compito, se la penso così e sapete che la penso così, è quello di dire che c'è un perché se perdi l'elezione. Se voi volete continuare a difendere chi perde le elezioni perché pensate che l'alternativa sia peggiore e difendete però chi vi ha tradito, benissimo, fatelo pure, io non ho quella propensione. Se penso che moderati, statisti, liberali debbono avere una cifra di credibilità nel rapporto con questa grande questione che è la questione femminile del nostro tempo, lo penso, lo dico e voglio comportamenti coerenti. Se voi difendete chi non ce l'ha perché pensa di fare battutaccia ai vertici internazionali e siete fieri, fatti vostri. Io penso che sia indifendibile e penso che, per rispetto alle mie idee, non so se siano voi anche le vostre, voglio uno che domani non mi faccia vergognare da questo punto di vista. È molto semplice, basta essere coerenti, e in definitiva è quella la difficoltà della politica italiana, non solo di qua, ma in questo modo è stato evidente che soprattutto di qua. Vediamo quanto a Milano e a Napoli però osservatori esterni, per giornalisti che per i loro quotidiani hanno seguito in maniera continuativa nel tempo il passaggio da un'amministrazione all'altra, il formarsi dell'opinione pubblica con questi voti che sono stati di così grande impatto, se ha contato davvero anche a Milano e a Napoli questa componente femminile, cioè se in altre parole i nuovi sindaci Pisapia e De Magistris ne fanno un proprio cavallo di battaglia con le giunte al 50% annunciate, oppure davvero si trovano a dovere anche in qualche maniera remunerare un fenomeno che ha concorso potentemente ai voti che hanno avuto. Ecco, cominciamo con Gian Giacomo Schiavi, vice direttore del Corriere della Sera. Questa questione, la questione femminile, visto che c'era pure un sindaco donna uscente, Letizia Moratti, e anche di un certo cognome importante, ha contato secondo te nel giudizio dei milanesi che hanno scelto Pisapia, oppure no? Oppure la sinistra a Milano tradizionalmente è più radicata nella rappresentanza femminile, e quindi più che contare, più che far contare, approfittare del voto di disistima verso la componente personale nei rapporti con le donne di Berlusconi, e c'era invece una tradizione di sinistra milanese che ha reso pressoché inevitabile, per così dire, che andasse così anche con il concorso ma non decisivo del voto femminile. Come è andata, Schiavi, secondo te? No, è andata così. Molte donne, anche del centrodestra, hanno votato Pisapia. Diciamo che le donne a Milano hanno pesato tantissimo nella vittoria di Pisapia, ma soprattutto le donne a Milano non sono mai state così impegnate, mai così tenacemente in campo contro l'idea che l'uso del corpo, la furbizia, l'illegalità, certi atteggiamenti potessero diventare una scorciatoia per arrivare in alto. A Milano il caso Minetti è considerato una vergogna, ed è considerato una vergogna che una come lei sia diventata consigliere regionale nell'ipocrisia, nel silenzio di tanti, anche nel silenzio di Letizia Moratti, una donna, e proprio per questo molte si aspettavano da lei un segnale, una ribellione. Letizia Moratti ha pagato anche per questo, per il fatto che come donna non ha saputo interpretare questo senso un po' così di disagio. Milano è una città paziente, è una città che in genere sa accettare alcune dinamiche, diciamo così, che vengono dall'alto, però a un certo punto si stanca, e Milano si è stancata, ha detto basta. Io ho avvertito proprio questa sensazione: basta, non possiamo più accettare questo, siamo arrivati a un punto limite. Le donne sono scese in campo, hanno fatto una campagna elettorale straordinaria, un tantam incredibile, tutto a favore di Pisapia, che aveva aperto anche per quei canali, come hai ricordato tu, che spesso a sinistra, diciamo così, si attivano meglio che non nel centrodestra, ma soprattutto sono state tante spontaneamente che si sono messe in campo. A Milano le indignate sono anche le mamme che protestano contro lo smog, le mamme che chiedono marciapiedi transitabili per i passeggini, le mamme che vanno in piazza in maniera, diciamo così, molte volte anche folcloristica, con dei palloncini, ma che segnalano spesso dei disagi. E tutto questo insieme ha spinto le donne a scendere in campo in maniera molto più forte che non in passato. Luigi Roano, il Mattino, a Napoli questa componente c'è stata, ha avuto caratteristiche più vicine alla storia della città, anche lì c'era un'amministrazione uscente con un sindaco certo come la Iervolino che era praticamente mollato dal suo stesso partito e con evidentissimi problemi rispetto a un lungo blocco di potere di cui avrebbe ereditato la rappresentanza. Ma detto questo, lì la componente femminile su Berlusconi e rispetto a questo aspetto della vita nazionale ha contato? È stato bravo De Magistris a intercettarlo, oppure De Magistris si è trovato di fronte a un fenomeno semplicemente che sarebbe esistito a prescindere, e oggi magari lui è più bravo a cavalcarlo di altri? Ci descrivi la tua impressione di osservatore esterno. La mia impressione, buongiorno ancora, è che la seconda cosa che dicevi te, lui cavalca un fenomeno che già era esistente, perché il paradosso napoletano è che noi veniamo da 10 anni di amministrazione femminile fatta all'insegna della signora Iervolino, signora per benissimo, che però non ha connotato assolutamente in nulla questo suo lungo governo femminile. Mi spiego meglio: lei ha governato, è donna, ma ha governato come governano gli uomini, quella vecchia politica che invece è stata messa in soffitta a Napoli quanto a Milano con motivazioni diverse. Qua le donne a Napoli hanno votato anche contro la Iervolino, il modo di fare politica di la Iervolino, e si sono messe a fare campagna elettorale con grande convinzione per De Magistris, perché c'è stata un'offerta politica al femminile, paradossalmente, che arriva da un maschio, da uno che è apolitico, perché viene da un altro mondo, viene dalla magistratura e non viene strettamente collegato a quello che è l'universo della politica anche quella classica dei partiti. Dal tuo punto di vista, ti faccio una domanda un po' fuori dai denti, perché ho visto anche commenti che dicono De Magistris poi alla fine ha avuto questo fenomeno di voto così imponente, sia pure con un'alta astensione, ma insomma con un fenomeno di voto rispetto a chi ha dovuto votare molto alto, anche perché è un po', insomma, diciamolo, è bello. Adesso io non so se questa cosa conti, io immagino che possa contare. So che detta così rispetto al tono della trasmissione può sembrare così un po' uno scivolone, ma conta anche questo aspetto. Cioè De Magistris, da questo punto di vista, buca la realtà cittadina di continuità dei vecchi apparati partitici, anche perché è disinvolto personalmente, c'ha questo aspetto un po' guascone, oppure no, secondo te? Questa sia una componente non primaria ma importante. Non che De Magistris possa diventare il Minetti napoletano, questo sia ben chiaro. I flussi di voti analizzati dall'altro dall'Istituto Cattaneo, che è altro sopra in sospetto, confermano che, come tanto per utilizzare il lessico del mio sindaco, lui ha scassato perché è riuscito a raccogliere il voto di giovani e soprattutto donne. Però l'elemento che un Magistris giovane rappresenta, a detta delle donne, anche un bel ragazzo, io ho seguito la sua campagna elettorale da vicino, posso assicurarti che ci sono state scene che si vedono solamente quando arrivano le pop star, e anche adesso più o meno è così quando lui esce, e sarà un innamoramento, sarà la fase della luna di miele, vedremo. Ma adesso però già il problema di mettere in squadra donne di qualità, perché l'UDI, l'Unione Donne Italiane, le femministe stanno incalzando. Il paradosso è che dai 10 anni della eroina, scusatemi se insisto su questo, e viene fuori che quell'universo femminile attivo è stato praticamente represso e non c'è più, e ora molte di queste donne che hanno votato, hanno fatto la campagna elettorale, sono andate in piazza, però stentano a qualificarsi come possibili assessori, come possibili personalità che possono dare veramente quella svolta che De Magistris ha annunciato in campagna elettorale anche appena si è insediato. Però la componente estetica, credo che come in tutte le cose della vita, conti, e anche in questo caso qua abbia avuto un suo peso, non determinante, ma l'ha avuto. Ora, ripeto, molti ascoltatori dicono: Giannino è impazzito, Giannino dimentica che le conduttrici sono femminili anche sui canali Mediaset, ma cos'è questa storia? Per ogni uomo che fa andare avanti una donna che tende ad approfittarne, ce ne sono 10 che si propongono tentando gli uomini, cioè, come volete. Io mi limito a dire che secondo me questo aspetto ormai è diventato un aspetto della vita pubblica italiana che pesa nel giudizio degli elettori, e siccome tendo a credere che da sempre nella storia italiana ci sono gli effetti slavina nei comportamenti elettorali, e che quindi quando iniziano a manifestarsi con questa forza poi diventano un tratto di fondo per periodi più o meno lunghi, questo ci insegna la storia dei comportamenti di voto nel nostro paese, io dico a voi moderati: state attenti, se pensate che sia un non tema, vivete in questa convenzione. Io mi limito a segnalare, a farvi riflettere con degli ospiti intorno a questo punto. Chiedo a Gian Giacomo Schiavi, vice direttore del Corriere: molte volte si dice che in tanti anni in realtà il centrodestra, nelle sue diverse versioni, Forza Italia, PAN, PDL, Lega e così via, nella realtà rispetto all'intellettualità anche delle donne milanesi non è mai riuscito poi a radicarsi davvero, a superare il complesso di chi non sa stare a tavola, per così dire. Voglio dire, se noi pensiamo ad alcune tradizionali donne molto importanti nella storia intellettuale, culturale, civile milanese, da Gaia Lenti da una parte, all'ex presidente e fondatrice del FAI, Gianna Maria Crespi, alla stessa sua successora alla guida del FAI, il Fondo Ambientale Italiano, che tanto fa per tutelare il nostro patrimonio e così via, abbiamo grandi nomi di donne che pesano molto nella Milano culturale e intellettuale, di solito quasi mai che esprimono giudizi positivi nei confronti del centrodestra. C'è un problema anche con l'intellettualità, il mondo delle professioni femminili, che non è mai riuscito a farsi sedurre davvero dal centrodestra a Milano ed è sempre rimasto un po' nostalgicamente ancorato a logiche anni 70, o si è messo in moto qualche cosa di nuovo intorno a Pisapia? Quando Pisapia dice, tu lo hai confermato, c'è stata una grande riscoperta civile a Milano di impegno al di là delle adesioni e delle appartenenze, ha ripreso questo fatto, ma perché il centrodestra poi non c'è mai riuscito a convincerlo, le donne impegnate nella Milano delle professioni, oppure no, secondo te? Ma diciamo che un sindaco donna a Milano aveva avuto fiducia e in fondo 5 anni fa Letizia Moratti, tante donne avevano guardato come ad una svolta positiva, quella svolta diciamo così che a Milano interessa molto e che è quella del merito, cioè riuscire a far prevalere le questioni del merito sulle questioni anche della convenienza o dell'appartenenza. Ecco, questo è mancato e in fondo c'è anche stata una delusione forte, proprio perché c'è stato un momento in cui Milano, con il presidente del tribunale Livia Pomodoro, con il presidente dell'associazione industriale Diana Bracco e con il sindaco Moratti, ha avuto un momento in cui la presenza femminile nelle alte cariche era effettivamente molto importante, però questo non si è tradotto in alcune scelte che hanno portato a evidenziare proprio un'immagine diversa della donna, hanno dato alla donna il senso di una responsabilità nuova e il senso di un'attenzione diversa. Anche il discorso che hai fatto all'inizio delle quote è un discorso che va affrontato proprio perché tanti di noi, io anch'io la pensavo come te, a 20 anni pensavo che le quote fossero una fesseria, che fossero diciamo così una sorta di tutoraggio o una tutela da WWF. Uno è bravo, è capace, non si discute, non ci sono delle altre ragioni e quindi non bisogna inventarsi dei criteri di parità. A 50, quando sono in riunione nella sala Albertini del Corriere della Sera e tra i 20 presenti conto 3 donne, un po' mi vergogno dei tanti discorsi fatti sulla parità, vuol dire che c'è qualche cosa che non funziona. Ecco, la sensazione che si ha è che questo qualcosa che non funziona sia stato raccolto in maniera un po' più forte e fatto diventare una specie di bandiera dal centro-sinistra e non dal centro-destra. La parola quote suona male per molti del centrodestra, sembra quasi offensiva, sembra un obbligo e non un'effettiva parità, ma se non si fa così, se non si trova un correttivo, fra 20 anni probabilmente parleremo ancora di questo, ci troveremo i reparti di chirurgia in cui le donne sono viste come il fumo negli occhi, nei posti di vertice delle aziende di Stato le donne non possono arrivare, tranne qualche raro caso, e così via. Cioè ci sono sempre degli esami del sangue che vengono fatti alla presenza femminile. Allora bisogna rompere, diciamo così, questo muro ed è un modo di farlo anche mettendo le quote. Io credo che a Milano questo sia stato, diciamo così, uno dei motivi molto importanti della campagna elettorale di Pisapia. Non a caso nella squadra, nella think tank di Pisapia ci sono tantissime donne e sono tante manager, sono donne impegnate, sono donne in ruoli importanti in vari settori della società e queste donne hanno portato questo messaggio, che non è un messaggio tipicamente di sinistra, è un messaggio di parità, un messaggio di autonomia. È arrivato il momento, come hai detto tu prima, di mandare dei segnali. Milano ha mandato questi segnali, le donne sono state molto importanti in questo. Continuo a dire agli ascoltatori che oggi ricevo, diciamo così, epiteti da parte di quelli del centrodestra, che tradizionalmente sono meno cattivi con me. E guardate, io non sto dicendo che avrei votato De Magistris, io sto dicendo che questo aspetto è un aspetto di rottura, è una linea di faglia nella società italiana e lo dico anche da moderato, a me quest'idea del insomma, non voglio usare, non mi piace, non mi capite, non mi piace, non c'entra niente dire dai una mano a De Magistris, altrimenti cadete nella solita cosa dell'anfiteatro tribale, per cui i difetti dell'uno servono a sostenere i difetti dell'altro. A furia di ragionare così abbiamo una rappresentanza in generale dequalificata, dove in generale un ex magistrato poi che stia lontano dai partiti becca i 2/3 dei consensi, e lo dico non per liquidare il voto dei napoletani, ma perché è a furia di giustificare appunto l'aspetto tribale del difetto altrui in nome del difetto proprio. 9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio, la componente femminile nel secondo turno delle amministrative, nel giudizio su Berlusconi, problema non superabile o invece superabile come tanti altri. Abbiamo toccato con mano che Berlusconi è in questo anche un incorreggibile distruttore di pregiudizi. Tutti coloro che pensano di sconfiggerlo fino a questo momento con degli argomenti inoppugnabili sono stati poi in realtà smentiti dalla sua capacità di rimettersi in piedi. Sarà ancora così una volta? Vediamo come la pensate voi. Cominciamo da Margherita, che ci chiama da Milano. Prego, Margherita. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, io sono partita con una profonda irritazione agli argomenti portati in radio dalla signora Latella, direttore del giornale A. Irritata perché non mi è piaciuto, benché abbia molte cose da dire, ma non è il caso, andrebbe troppo lontano, non mi è piaciuto il suo reiterato tentativo di ridurre la figura di Berlusconi a un raccontatore di barzellette. Allora, ricorderei a tutti, perché mi sembra che sia il caso, la grande capacità imprenditoriale di Berlusconi, ricorderei a tutti quanto e come le sue società fruttino bene, impieghino persone che non sono mai state messe in cassa integrazione. Le barzellette erano fatti personali, che sono, e qui è il punto, sono venute alla luce tante cose non private ma privatissime di Berlusconi, perché una stampa ben concorde su questo punto le ha portate alla conoscenza del pubblico. No, su questo, e poi soprattutto perché una squadra di magistrati si è messa giù di pesante a fare su questo. Altro che, se sono andati giù pesanti. Allora, per finire questo argomento, perché poi sennò sembra che io abbia telefonato per sostenere Berlusconi, ricorderei a tutti ancora una volta che i fatti più gravi imputati a Berlusconi non sono solo tutti da giudicare, ma sono anche tutti da provare. Quello che interessava a una certa stampa, a una certa magistratura, era il fango di cui è stato abbondantemente coperto, creato lo scandalo, che poi sia vero sì, sia vero no, questo non conta. Margherita, sì, questo, io penso, io aspetti però su questo, gli interessava, diciamo, non so a quanti deliberatamente, ma di sicuro io condivido, una delle finalità delle chiese, al di là delle fattispecie penali da elevare, era quella di far rilevare agli italiani questo aspetto del Berlusconi che ha sul sesso, nel rapporto con le donne, una vita che mi permetto di dire disordinata. E la domanda diventa: quando è così impegnativo nel proprio calendario personale, è qualcosa che poi diventa anche politicamente rilevante? Temo che la linea, al di là del giudizio penale e al di là della disinvoltura nelle indagini, su questo io sono d'accordo con lei, temo che però questa questione sia entrata nell'agenda italiana. Ecco, detto questo, quindi lei come la pensa? No, detto questo, ancora una volta vorrei sottolinearlo, perché mi sembra importante, e non solo tutto da giudicare, ma è tutto da provare. Sì, infatti, sì, probabilmente sì, lo diranno quando sarà troppo tardi. Ma detto questo, che non è però il soggetto principale della sì, mia irritazione, io ho 74 anni tra qualche settimana, ho lavorato fino all'età di 66 anni. Vorrei ricordare alle donne, conosco quindi la vita di lavoro, eccetera. Vorrei ricordare alle donne che in materia di strumentalizzazione, le prime colpevoli sono proprio loro, siamo proprio noi. Allora, tanto per metterci tutti nel perché pallone. Perché tendono ad approfittarne? Ma perché tendono a passare, a farsi prendere come letteralmente per i fondelli, come è il caso nella circostanza specifica, a farsi raccontare che sono sfruttate, che sono strumentalizzate, che poi ci siano sul piano della legge tante cose che dovrebbero essere corrette, ma battiamoci per quelle. Si tratta di una specie di risorgenza, di un femminismo. Però lei dice, insomma, le donne devono anche dare un po' di colpa a se stesse. Assolutissimamente. Su quello che è successo prima delle elezioni, a me sembrano ancora molto più gravi, per esempio, fatti come quelli del ragazzino di 13 anni portato e messo in pubblico a raccontare tutto quello che gli hanno fatto raccontare al famoso Palasciato. Queste mi sembrano cose veramente gravi, ma benissimo, veramente molto gravi. Tutte mi sembrano gravi, però direi alle donne: siate responsabili dei vostri atti. Lo ripeto, ho 74 anni, ho lavorato fino a 66 anni, non mi è mai successo di farmi strumentalizzare. Grazie, allora, grazie Margherita, punto di vista chiarissimo e tagliente. Maurizio da Milano, prego Maurizio. Buongiorno a tutti. Allora, io volevo un attimino rispondere al signore dicendo che comunque Berlusconi ha avuto un merito, che nelle sue aziende, voglio dire, non ha fatto andare avanti la mignottocrazia, ma la meritocrazia, e i risultati sono lì a parlare. Avrei voluto che avesse fatto la stessa cosa nel nostro governo e nella società. Io credo che, io mi trovo molto d'accordo con lei sul discorso di condannare quelle che sono state la non politica, comunque i non risultati ottenuti o comunque portati sì, a favore certo, della famiglia. Faccio l'esempio proprio sul discorso delle famiglie, delle mamme che hanno figli, che non c'è stata nessuna legge, nessun disegno di legge nemmeno a cercare di tutelare, fare in modo che le donne potessero fare figli, stare a casa e avere poi la sicurezza di ritornare e di trovare il proprio lavoro. Purtroppo la storia è piena di donne che quando sono tornate al lavoro sono state. E quindi c'è anche questo aspetto ordinamentale. Noi continuiamo ad avere il fisco più ferocemente antifamiglia e anticarichi familiari, ci ricorda Maurizio. Sentiamo Mauro da Padova, prego Mauro, rapido. volevo rapportare il discorso della signora. Io parlo per esempio del campo della medicina, degli ospedali, dove tutto è in mano al pubblico. Sì. Berlusconi è un uomo politico ormai scappato, è un democristiano, un socialista, non so cosa. Noi, nel pubblico, le donne dal primariato, infermiere, cosa fanno per andare avanti? Lo sappiamo tutti, cioè è sulla bocca di tutti quello che accade negli ospedali. Cioè lei dice che insomma le donne vanno avanti a colpi di altro che di merito, sì. Ma è sulla bocca di tutti, lo sappiamo tutti, lo sappiamo. Ma Mauro, non lo so, io non so se essere d'accordo con lei, perché io in tanti anni, io lo dico sempre, ho cambiato idea sulla necessità di legge a tempo per le quote, proprio perché in tutte le aziende dove ho lavorato avevo capi che ne approfittavano con le donne, che guardavano i centimetri della gonna, guardavano la camicia sbottonata, apprezzavano battute, eccetera, eccetera. Lo so, deve essere uomini di mondo, ho fatto il militare a Cuneo anch'io, però detto questo... Tendere a dire che è colpa delle donne solo perché qualcuno ci giudica e ci vede così cretini, se posso dire fuori dai denti come la penso io, e a quel punto ne approfitta disinvoltamente, io non posso essere d'accordo, perché ho conosciuto, le avrò beccate tutte io le aziende così, cosa volete da me, ma ho conosciuto troppe vittime prevalenti rispetto a chi ne approfittava. Certo, uomini e donne diverse non si passano da un giorno all'altro, è una questione di medio-lungo periodo e di cultura, però guardate, cari moderati e moderate in ascolto, non rispondete con l'irritata difesa di Berlusconi. Gli uomini politici devono essere quello che appaiono e devono apparire quello che sono, altrimenti dopo 18 anni vanno a casa e chiudono un ciclo. Questa è la mia conclusione della trasmissione. Grazie a Marlatella, Gian Giacomo Schiavi, a Luigi Roano, grazie a voi tutti, abbiamo molte telefonate in più, ma domani è un altro giorno. Intanto linea Generale Radio. Radio 24, la passione si sente.